Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Addio a Paolo Rossi, il mondo del calcio piange la scomparsa, 64 anni di Pablito, il ricordo di Mattarella, indimenticabile protagonista dell'Italia dell'82. Regeni, la procura di Roma chiude le indagini, 4 agenti dei servizi egiziani a processo. Si apre oggi il Consiglio europeo per lo sblocco del pacchetto di aiuti, la proposta di mediazione tedesca è un passo avanti, dice il commissario Gentiloni. Google e Facebook multa da 100 milioni di euro dell'autority francese, presi i dati dei clienti per la pubblicità senza il consenso. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano naturalmente la scomparsa di Paolo Rossi, ma anche l'avvio del Consiglio europeo di Bruxelles sul Recovery Fund, con la speranza concreta di poter chiudere questo accordo in sede europea, e poi anche la chiusura delle indagini romane sulla morte di Giulio Regeni, ne parleremo tra poco. Cominciamo con lutto nel mondo del calcio per la morte di Paolo Rossi, campione del mondo con l'Italia del 1982, indimenticabile protagonista di quella stagione. Poco fa il ricordo del capo dello Stato Sergio Mattarella, un fulmine a ciel sereno per tutti gli appassionati di calcio che Rossi aveva continuato a frequentare anche come commentatore televisivo. Pergomi, Gentile, è finito, campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Pablito lo era diventato già 4 anni prima, nel 78, in Argentina, ma in quell'estate del 1982 che Paolo Rossi diventa mito. Del resto la sua storia era l'emblema di un paese intero. Fisico gracile, ginocchia fragili, ma istinto del gol ineguagliabile. Inghiottito, suo malgrado, dallo scandalo scommesse del 1980, ma atteso da Bearzot come un figlio, oltre il limite dell'umano amore e pazienza. E lui, Pablito, al vecchio che regalo gli fa? Tripletta col Brasile, 2 gol in semifinale alla Polonia, la rete che apre il 3-1 alla Germania Ovest nella finale del Bernabeu, col presidente Pertini che fa festa in tribuna e l'Italia in ogni piazza e strada. E per Rossi, capocannoniere, pure il pallone d'oro. Questo forse per la perseveranza, senza il forse, soprattutto per la perseveranza, la testardaggine di Bearzot, senza di lui davvero non ci sarei arrivato a vincere un mondiale. Un padre Bearzot per Paolo, tanto che insieme usciranno di scena in azzurro nel deludente mondiale di Messico 86. Se col Vicenza invece era arrivata la prima fama e col Milan gli ultimi gol, è con la Juventus che Rossi vincerà di fatto tutto, ma anche il trofeo più desiderato e amaro, la Coppa Campioni, nella tragica notte dell'Aisel. Poi l'attività di commentatore TV, 1000 interessi, la passione per l'enologia e il vino. Ciao Paolo, campione di tutti in quella magica estate mundial. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora le altre notizie, cominciamo con la politica. Ha superato lo scoglio del voto parlamentare sulla riforma del MES, il presidente del Consiglio Conte parteciperà oggi e domani al vertice del Consiglio europeo, chiamato a dare il via libera al piano di rilancio economico più grande della storia del continente, parliamo del Next Generation Europe. Attaccato da Renzi, il premier Conte cerca una via d'uscita sulla task force per il piano dell'Italia. Superato lo scoglio del voto sulla riforma del MES, nella maggioranza restano le tensioni sul recovery plan italiano. Il leader di Italia Viva Renzi ha lanciato un ultimatum al premier Conte, minacciando anche di uscire dal governo se non ci saranno passi indietro sulla task force che dovrebbe seguire i progetti finanziati con i 209 miliardi in arrivo dall'Europa. Incalzato anche dal Partito Democratico, il presidente del Consiglio non cede sulla governance del recovery, ma apre a modifiche e assicura che i manager della task force avranno compiti di monitoraggio e non sottrarranno potere e competenze ai ministri. Conte promette poi una riduzione dei 300 esperti che dovranno supportare la struttura e fa sapere che la norma sulla governance non andrà nella legge di bilancio ma in un apposito decreto che il Parlamento potrà poi eventualmente modificare. Sempre nella maggioranza, intanto, il Movimento 5 Stelle perde altri pezzi dopo l'aspro confronto interno sul MES. 4 deputati contrari alla riforma votata ieri sono passati al gruppo misto. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Restiamo in Europa, nessun accordo sulla Brexit dopo la cena di ieri sera tra la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il Premier britannico Boris Johnson. Si continuerà a negoziare fino a domenica. Intanto la Banca Centrale Europea è pronta con la riunione di oggi a varare misure per ulteriori per 500 miliardi di euro contro la terza ondata di Covid. La Banca Centrale Europea è pronta a scendere in campo per arginare gli effetti sull'economia della seconda ondata Covid. Le nuove stime in arrivo dal Consiglio Direttivo della BCE non lasciano ben sperare. Francoforte ha così in serbo un nuovo pacchetto di misure incentrato su un potenziamento del programma di acquisti di debito per l'emergenza pandemica, oltre a una spinta in più al credito delle imprese. Gli esperti ritengono che la presidente della BCE, Christine Lagarde, potrebbe così allungare il programma per l'emergenza pandemica fino a giugno 2022 e potenziare gli acquisti del debito pubblico con ulteriore 500 miliardi. Obiettivo della Banca Centrale Europea è tenere sotto controllo i tassi di interesse per evitare contraccolpi dall'aumento dell'indebitamento innescato dal Covid in paesi come Italia, Francia e Spagna. L'attesa per le mosse della BCE ha messo di buon umore le borse europee. Gli investitori si mostrano infatti ottimisti sulle decisioni in arrivo da Francoforte. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, notizia di poco fa, avrebbe aperto una riflessione sull'opportunità di allargare la possibilità di spostamento tra i comuni nei giorni di Natale. Quanto si apprende da fonti parlamentari, il divieto di uscire dal comune, lo ricorderete, è previsto per i giorni 25, 26 dicembre e 1 di gennaio. Intanto ci sono quattro regioni, la Lombardia, il Piemonte, ma anche la Toscana e la Campania, che da venerdì potrebbero diventare zona gialla. Si saprà domani quali regioni entreranno nella fascia di rischio inferiore. A deciderlo sarà il Ministero della Salute. Lombardia e Piemonte potrebbero dunque diventare gialle con minori restrizioni anti-Covid a partire da domenica. In entrambe le regioni prosegue la diminuzione sia del numero di positivi al test sia di ricoveri in terapia intensiva che negli altri reparti. Mentre il Veneto, oggi giallo, potrebbe compiere il percorso inverso. L'emergenza infatti non accenna a stabilizzarsi e resta la prima regione in Italia per numero di contagi. Le regioni che entreranno in fascia gialla vedranno un netto allentamento delle misure anti-Covid. Ci si potrà spostare sia tra comuni che verso altre regioni a loro volta gialle. Tutti i negozi possono riaprire, nei ristoranti e bar si potrà consumare all'interno dalle 5 alle 18. Resta però il coprifuoco nazionale dalle 22 alle 5 del mattino, misure valide sino al 20. Poi dal 21 dicembre al 6 gennaio entra in vigore il cosiddetto DPCM Natale, che limita nuovamente gli spostamenti anche tra comuni e regioni. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora parliamo del piano vaccini dell'Italia, perché è stato preparato un bando per l'assunzione di medici e infermieri che dovranno garantire la vaccinazione di almeno 40 milioni di italiani. Sentiamo. Sarà pubblicato domani il bando del commissario Arcuri per reclutare circa 3.000 medici e 13.000 infermieri per il piano vaccini anti-Covid. Si tratterà di incarichi a termine a partire da gennaio e per periodi variabili da alcuni mesi a un massimo di 12. La presidente dell'Ordine degli Infermieri, Barbara Mangiacavalli. La chiamata della Protezione Civile in genere fa affidamento su persone che sono già in servizio. Allora, questo tipo di chiamata è andata molto bene nella prima ondata, perché la prima ondata c'era una diffusione in poche regioni, quindi le regioni meno sofferenti per l'epidemia hanno dato una mano col loro personale. Già la seconda ondata è stata più problematica, perché ovviamente con un virus diffuso su tutto il paese, la Protezione Civile prevede di chiamare i dipendenti, i neolaureati, chi in qualche modo ha già qualche tipo di contratto di lavoro, chi proprio non ha ancora lavoro, che dubito che li trovino. Però non hanno previsto ad esempio l'utilizzo di infermieri liberi professionisti, ce ne sono 60.000 sul territorio italiano. Mi sento di proporre come Presidente della Federazione di insistere soprattutto sui liberi professionisti. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La Procura di Roma ha chiuso l'inchiesta relativa alla vicenda di Giulio Regeni. I PM hanno emesso 4 avvisi di chiusura delle indagini che precede la richiesta di processo per appartenenti ai servizi segreti egiziani. Le accuse, a seconda delle posizioni, sono sequestro di persona pluriaggravato, concorso in omicidio aggravato, concorso in lesioni personali. I PM hanno notificato ai difensori d'ufficio italiani dei 4 indagati, non essendo pervenuta dall'Egitto l'elezione di domicilio di queste persone. E ora con la cronaca ci occupiamo del maltempo, c'è una tregua fortunatamente, anche se piove ancora al sud, resta l'allerta rossa oggi in Alto Adige e arancione in altre quattro regioni. Mentre si fa la conta dei danni è in arrivo un decreto legge sul dissesto idrogeologico. I fondi ci sono per sbloccarli, il nodo è di natura burocratico-amministrativa, spiega al microfono di Anna Marino il sottosegretario all'ambiente Roberto Morassut, che parla di un decreto in arrivo prima di Natale. Stiamo lavorando e contiamo di poter presentare per la discussione in Parlamento a cavallo delle feste di Natale un decreto legge che, con i caratteri di necessità ed urgenza che riveste questo provvedimento, possa dare delle risposte immediate, introdurre delle misure immediate di velocizzazione da un lato della operatività del sistema e anche di ulteriore semplificazione normativa, fare in modo che sul piano della prevenzione degli interventi per il dissesto idrogeologico e la difesa del suolo, le risorse importanti che ci sono e che ci saranno ancora di più con il piano nazionale per la ricostruzione e con altre fonti di finanziamento ordinarie possono essere spese presto e bene. Quindi anche i fondi europei saranno utili, i recovery fund? Assolutamente saranno in parte utilizzati, sapete che nel recovery fund la quota per il green è di 75 miliardi, ma per il dissesto noi contiamo di averne circa 6, tra i 6 e gli 8 miliardi per gli interventi sul dissesto idrogeologico. L'autority francese ha annunciato di aver condannato Google e Amazon a pagare due multe, 100 milioni e 35 milioni rispettivamente, per il mancato rispetto della legislazione sui cookies, i file rilasciati dai siti agli utenti per registrare dati e impostazioni personali in relazione ai servizi che questi siti offrono. L'autority rimprovera in particolare a Google Francia e Amazon Francia di lasciare traccianti pubblicitari sul computer degli utenti, senza però aver ottenuto in precedenza il loro accordo. Come ogni anno di questi tempi, negli ultimi giorni di dicembre viene scelto quello che sarà il colore dell'anno prossimo per il 2021. In realtà saranno due colori. Uno neutro e riflessivo, l'altro brillante e allegro. Sono due i colori scelti dal Pantone Color Institute per il 2021. Grigio e giallo, Ultimate Grey e Illuminating, i nomi tecnici. Combinazione di due colori indipendenti, scrive la massima autorità nel settore del colore, fornitrice degli standard internazionali. Combinazione pensata per trasmettere un senso di resilienza e speranza, solidità e ottimismo. Da oltre 20 anni ogni anno l'Istituto di Ricerca della Multinazionale Americana del Colore, dopo uno studio sulle tendenze nel design, nella moda, nella comunicazione e nell'arte, decide la tonalità che nei 12 mesi seguenti detterà legge nel mondo dei consumi, dai capi di abbigliamento all'arredamento, dal packaging dei prodotti alla grafica fino alla cosmetica. Non solo scelta estetica, ma anche specchio del tempo. Abbiamo bisogno di sentirci incoraggiati e risollevati e pensare che le cose torneranno a splendere, sottolinea quest'anno il Pantone Color Institute. È qualcosa di essenziale per la mente umana. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13 e 13 minuti, facciamo una piccola pausa, Effetto Giorno torna tra poco con tutte le altre notizie, ripartiremo con un ricordo di Paolo Rossi e poi con l'attesa del Consiglio Europeo di oggi a Bruxelles. 349-238-6666, a tra poco. Effetto Giorno. Ecco le notizie di oggi. Addio a Paolo Rossi. Il mondo del calcio piange la scomparsa a 64 anni di Pablito, eroe del Mundial di Spagna. Regeni, la Procura di Roma chiude le indagini. 4 agenti dei servizi segreti egiziani a processo. Si apre oggi il Consiglio Europeo per lo sblocco del pacchetto di aiuti. La proposta di mediazione tedesca è un passo avanti, dice il commissario Gentiloni. No, l'82 è stata più che un mondiale, è stata davvero una favola, insomma. Sono verificate delle situazioni incredibili dai personaggi che hanno caratterizzato quel mondiale, da Berzotta, Pertini, insomma, che hanno lasciato un segno fortissimo a quel mondiale, senza raccontare ovviamente tutti i ragazzi che insomma sono riusciti in quella bellissima cavalcata, insomma. Carlo Genta, ciao. Ciao Alessio, buongiorno a tutti. Allora, questa era un'intervista tra l'altro rilasciata naturalmente da Paolo Rossi, lo abbiamo riconosciuto tutti, un anno fa esatto. A tutti i convocati, un anno fa esatto. 10 dicembre del 2019, per chi vuole credere nei segni, nelle... Chi lo sa? In qualcosa di diverso dal normale. Beh, guarda, io ti dico che sì, l'idea, l'immagine più bella, sai chi me l'ha data in tutto questo? Chi te l'ha data? Alessio Maurizi. Perché? No, ti spiego perché. Perché prima parlavamo, e hai ragione, no? Abbiamo più o meno la stessa età, quelli che hanno una cinquantina d'anni, mal contati in questo periodo, insomma, stanno assistendo allo sgretolamento del muro della loro cameretta degli anni Ottanta. Eh sì. Hai ragione. Perché, gli anni Ottanta. Perché, insomma... Maradona, naturalmente. Highlander, Sean Connery, Mandrake, Gigi Proietti, tutti in un pugno di giorni. Dieguito Maradona e adesso Paolo Rossi, che, insomma, è quelli che... uno di quei personaggi che ognuno ha vissuto a modo suo, a seconda dell'età, delle passioni, eccetera, eccetera, ma un pezzettino l'abbiamo vissuto tutti, quindi... tutti ci ricordiamo dove eravamo, cosa stavi facendo quel giorno in cui distruggeva il Brasile? No, io ero in un barco col mio papà, vedi. Tutti i parenti del paese natale. Sì, tutti ci ricordiamo cosa è successo quel giorno di giugno, i 6 gol di Paolo Rossi, quell'impresa incredibile, un calciatore strano, perché questo corpo gracile, no? È stato detto, sì, questa faccia tra l'imbronciato e l'irriverente. Che calciatore è stato Paolo Rossi? Proviamo a dire anche questo, no? È stato un calciatore dal grande istinto. Un calciatore gentile perché comunque non si ricorda un suo comportamento, un suo atteggiamento fuori posto. Poi i soliti maliziosi ricorderanno che al Mondiale 82 arrivava dopo una lunga squalifica per la storia delle scommesse, molti furono coinvolti, eccetera, eccetera. Questo fa parte della storia, della leggenda, e nessuno vuole nascondere niente. Però ricordiamo questo centravanti con grande istinto, grande fiuto del gol, tanto che ha creato una categoria, no? Quando si dice un giocatore alla Paolo Rossi è quello che comunque la butta dentro in mischia, in certe condizioni, che è al momento giusto, al posto giusto. Quindi per noi, Carlo, alla Paolo Rossi, per quelli che sono arrivati dopo alla Inzaghi, e per ancora qualcun altro, no? Sono tutti figli suoi, sì, no? così come Paolo Rossi è padre putativo di un'intera generazione di italiani, del boom demografico dell'83, no? Anche questo va ricordato, perché c'è un'intera generazione di italiani che è stata concepita nella gioia e magari sulle bandiere tricolore. Cosa c'è di più bello? Ecco, tra l'altro, prima di salutarci, poi ci racconti anche come ricorderete Paolo Rossi oggi a tutti i convocati. È arrivato come un fulmine a ciel sereno questa notizia, credo per quasi tutti. Non ne aveva fatto filtrare né lui né la famiglia nessuna notizia sul suo stato di salute. Questa faccia da eterno ragazzino sembra incredibile. Sì, è vero, io non sapevo nulla, ma molti anche che fanno il nostro mestiere non sapevano nulla, magari quelli che erano più a stretto contatto con lui. Ricordiamo che lavorava alla Rai, dopo è stato anche apprezzatissimo commentatore televisivo, no? Tra Sky, Mediaset, Rai, eccetera, quindi magari quelli che erano più a stretto contatto con lui qualcosa sapevano, però anche in questo grande dignità e grande compostezza, nessuno sapeva nulla, e quindi è arrivata l'ennesima martellata di questo anno, che è un gigantesco pellegrinaggio al cimitero, onestamente. Grazie Carlo, grazie. Ci sentiamo dopo. E va bene, adesso cerchiamo di fare un collegamento, no? Anche tra la storia che abbiamo appena raccontato, quella di Paolo Rossi, che è la storia del calcio degli ultimi decenni, e l'attualità, calcio e socialità. Vedere la partita al bar o anche al circolo con gli amici è un fatto non solo del passato ma anche del presente. Forse in molte zone d'Italia è una delle poche attività ricreative a disposizione. Eppure la crisi Covid è arrivata anche qua a colpire molte realtà di aggregazione che si basano sul volontariato, sugli eventi di raccolta fondi dal vivo, come per esempio accade per i circoli Arci. Cristina Carpinelli ci racconterà questo spaccato di realtà nella prossima puntata di Diario di un Giorno, domenica alle 14.30. Sentiamo un'anticipazione con l'intervista al presidente dell'Arci dell'Emilia Romagna, Massimo Maisto. E alcuni circoli potrebbero, ahimè, non riaprire, nel senso che questa seconda chiusura è stata molto complicata, come per tutti. tutti, ma ha creato anche un grande senso di ingiustizia, perché vediamo che nelle zone gialle, per esempio l'Emilia Romagna è tornata zona gialla, c'è la possibilità di tenere aperto praticamente tutto, i bar fino alle ore 18, invece tutti i centri ricreativi culturali sono completamente chiusi. Noi avevamo fatto tutta una serie di adeguamenti, come era giusto che fosse, avere la possibilità di aprire in sicurezza, non darci questa possibilità fa sì che i costi aumentino. Quanto e come inciderà questa possibile chiusura e crisi? Tenete conto che circoliarci in Emilia Romagna sono quasi 800, ce ne sono magari tanti che non si vedono, ma sono piccole situazioni in piccole frazioni, sull'Appennino, nelle aree interne, sul Delta esistono piccoli paesini a rischio spopolamento dove non c'è praticamente più nulla. Noi abbiamo paura di perdere quei presidi che sono fondamentali. Un tempo si diceva che c'era la chiesa, il circolo Arce, adesso anche la chiesa, a volte ci sono i preti che devono fare 3-4 paesini perché non c'è più il prete per ogni spazio. Ecco, perdere il circolo Arce vuol ripetere non avere proprio letteralmente più niente. Noi abbiamo avuto sindaci che ci hanno telefonato chiedendo di tenere aperte perché era l'unico presidio di quella zona. Vi ricordo l'appuntamento diario di un giorno domenica alle 14.30. Adesso invece facciamo un'altra anticipazione, guardiamo in avanti al pomeriggio perché oggi inizia il Consiglio europeo, l'atteso Consiglio europeo, l'organo politico dell'Unione europea chiamato ad approvare il Recovery Fund, il più grande piano di aiuti alle economie, insomma, degli ultimi decenni. Due fatti significativi della vigilia sono l'annuncio di un'intesa con la Polonia e l'Ungheria, annunciato dalla Germania. Sapete che su questo veto della Polonia e dell'Ungheria si era tenuto con il fiato sospeso l'intero continente europeo per sbloccare appunto questo pacchetto di aiuti. E per quanto riguarda l'Italia, la giornata che abbiamo vissuto ieri con il braccio di ferro, la quasi crisi nella maggioranza tra Renzi e Conte sulla questione della governance, la cabina di regia con cui l'Italia dovrà gestire questo piano di aiuti. Ne parliamo con Beda Romano, corrispondente da Bruxelles. Ciao Beda, ben ritrovato. Buongiorno, grazie. Allora, cominciamo dal primo aspetto, no? Questa notizia anche oggi Gentiloni ci è tornato su, ha detto questa proposta di mediazione tedesca è un passo in avanti. In cosa consiste questo compromesso che è stato annunciato e che porterebbe la Polonia e l'Ungheria a togliere il veto e a far partire questo recovery? Beda. Sì, la premessa è che la Polonia e l'Ungheria sono scontente di una proposta di regolamento che è stata approvata in via preliminare dal Parlamento e dal Consiglio, ed è una proposta di regolamento che vincola l'esborso dei fondi comunitari al rispetto dello Stato di diritto. Il tentativo è quello di proteggere, per così dire, il bilancio comunitario e il fondo per la ripresa da frodi e ruberie varie. Allora, si sono opposte a questo regolamento i due paesi e hanno nel frattempo anche bloccato l'approvazione del bilancio. Adesso il compromesso presentato dalla Germania, che ha la presidenza di turno dell'Unione Europea, è un compromesso che prevede linee guida interpretative da parte della Commissione su come verrebbe utilizzato questo regolamento. Il tentativo è quello di tranquillizzare questi due paesi, rassicurarli e dir loro che il regolamento verrebbe applicato esclusivamente per proteggere il bilancio e in modo equo e paritario nei confronti di tutti i 27 paesi membri. C'è anche un altro aspetto di questo compromesso e di questa linea guida. C'è scritto che nel caso in cui ci fosse un ricorso davanti alla Corte Europea di Giustizia contro questo regolamento da parte di uno di questi due paesi, la Commissione sarebbe costretta a congelare le linee guida e comunque sia a non applicare il regolamento. Allora, il compromesso è chiaro, il tentativo è di avere l'unanimità sul bilancio, il problema è che non si possono escludere difficoltà con altri paesi a questo punto, a cominciare dall'Olanda, perché il compromesso, pur non cambiando il testo del regolamento, inevitabilmente in qualche modo lo inquadra, lo vincola ad un'interpretazione piuttosto rigida. Dobbiamo capire tra oggi e domani se l'Olanda e altri paesi sono pronti ad accettare questo compromesso e quindi permettere finalmente l'approvazione unanime del bilancio comunitario e del fondo per la ripresa. Quindi staremo a vedere se effettivamente questa via d'uscita individuata non diventa poi invece un modo per far rientrare dalla finestra quello che è stato fatto uscire dalla porta, cioè problemi, opposizioni, veti a questo bilancio europeo. Parlavi della posizione dell'Olanda. Invece per quanto riguarda l'Italia, Beda Romano, il braccio di ferro tra Conte e Renzi sulle regole, sulla gestione della parte italiana di questi 209 miliardi che dovrebbero arrivare all'Italia, in superficie si è concentrato questo scontro sulla questione del comitato dei manager e anche della struttura sottoposta a questo comitato, una struttura operativa che era troppo grande. Renzi voleva ridimensionarla, non si voleva questo comitato di manager, si è detto bisogna far lavorare il Parlamento e i ministri, però il Presidente del Consiglio Conte ha obiettato, ha detto che questa struttura, una struttura che monitora la spesa dei soldi europei, la chiede Bruxelles. È così? Ci puoi spiegare cosa prevede dal punto di vista dei regolamenti la decisione, diciamo, in sede europea per quanto riguarda poi come ogni singolo paese deve gestirsi i suoi fondi? Le linee guida in questo caso diverse da quelle precedenti, in questo caso le linee guida dell'utilizzo dei soldi del Fondo per la Ripresa sono linee guida pubblicate in settembre dalla Commissione, che dovranno essere in parte fatte proprie in un regolamento che deve essere approvato ancora dal Parlamento e dal Consiglio, e sono linee guida piuttosto restrittive, piuttosto vincolanti. Vi sono moltissimi soldi in ballo ed è evidente che i 27 vogliono che i soldi vengano spesi bene, che non vengano sprecati e che vi sia da parte dei singoli governi un controllo passo passo di come il denaro viene speso. Non solo di come il denaro viene speso, l'esborso stesso del denaro dipende dal passaggio di leggi, dal passaggio di provvedimenti, e quindi l'Italia non riceverà tot soldi dall'inizio e potrà usarli liberamente. No, riceverà i soldi volta per volta a seconda dei progetti e a seconda delle riforme che verranno effettivamente approvate. Quindi credo che abbia ragione il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte quando dice che l'Europa vuole un monitoraggio stretto. Temo che sia proprio così e saremmo sorpresi del contrario. C'è poi da capire, Beda Romano, questo però è più tema, diciamo, di politica italiana e poi anche di come queste linee guida verranno interpretate, se questo monitoraggio lo deve fare il governo, lo deve fare il Parlamento, lo deve fare le strutture apposite, lo deve fare questo comitato di manager, tema su cui quasi sono arrivati alla rottura Renzi e Conte. Grazie Beda Romano, alle 13.31 noi ci fermiamo, il Consiglio europeo inizia oggi pomeriggio, vedremo intanto se si sbloccherà questa trattativa europea che tra oggi e domani dovrebbe, su cui tra oggi e domani dovrebbe essere messo un punto definitivo, un punto di partenza positivo definitivo. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Ci risentiamo tra poco. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Addio a Paolo Rossi, il mondo del calcio piange la scomparsa a 64 anni di Pablito Mattarella, indimenticabile protagonista dell'Italia dell'82. Regeni, la procura di Roma chiude le indagini, 4 agenti dei servizi di sicurezza egiziani a processo. Si apre oggi il Consiglio europeo sul Recovery Fund, la proposta di mediazione tedesca è un passo avanti, dice il commissario Gentiloni. Impegnare una parte dei fondi europei nel ciclo dei rifiuti è l'appello che arriva dal rapporto FISE 2020. A raccolta e riciclo dei rifiuti sono a rischio anche per l'emergenza Covid. Ne parliamo tra poco. Il punto di Alberto Orioli. C'è un dato che colpisce nei consumi elettrici di novembre diffusi da Terna. In sostanza, in piena pandemia, sono stati superiori a quelli di un anno fa, quando il Covid ancora non c'era. Si dirà il lockdown e lo smart working che ci costringe a stare attaccati al computer tutto il giorno e moltiplica così i consumi. No, si tratta soprattutto dell'aumento del consumo di energia delle industrie appunto energivore. dalla metalmeccanica alla carta, dalla chimica alla ceramica, dai cementifici agli stabilimenti per l'alluminio, tanto per fare qualche esempio. Terna ha censito a parte un campione rappresentativo di 530 imprese che valgono da sentinelle delle tendenze generali e l'osservazione di questo panel ha portato appunto a quella conclusione in attesa. E ciò dimostra che è l'industria a tenere in vita il paese ibernato dalla pandemia, ma dice anche che se riusciamo a gestire bene la strategia di uscita dall'emergenza che blocca i servizi e la pubblica amministrazione soprattutto, l'Italia ha un potenziale per realizzare un nuovo rimbalzo di crescita. E dice anche che a maggior ragione è utile tenere in gran conto la visione dell'industria nel momento in cui si riscrivono le sorti del futuro del paese, perché è l'industria che lo sta tenendo in vita. Allora, adesso, a parte un aggiornamento velocissimo per quanto riguarda il Consiglio europeo, c'è una dichiarazione di Angela Merkel, la cancelliera tedesca, che dice: vedremo se possiamo raggiungere l'unanimità sul bilancio europeo, sarebbe un segno importante della capacità d'azione dell'Europa. Queste, diciamo, le parole incoraggianti alla vigilia del Consiglio europeo di cui siamo occupati poco fa. Adesso invece parliamo del rapporto Italia del riciclo 2020, parliamo della gestione dei rifiuti, il ciclo dei rifiuti per quanto riguarda la raccolta differenziata e il trattamento negli impianti. Lo facciamo con Paolo Barberi, presidente di Fise Unicircular. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, prima di tutto, quali sono le aziende, ci dica questo, no, che sono associate in Fise Unicircular, per capire di quale spaccato, di quale settore stiamo parlando, nel più grande, diciamo, ambito della questione dei rifiuti? Sì, l'ambito in cui noi ci muoviamo è quello delle aziende che trasformano i rifiuti in prodotti. Mm-hmm. Per diverse filiere, sono le filiere degli pneumatici, dei veicoli fuori uso, dei rifiuti inerti, del tessile, e adesso sicuramente ne dimenticherò qualcuna, ma sono appunto le diverse filiere del comparto industriale che trasforma il rifiuto in prodotto. Benissimo. Pronto da essere rimesso nel mercato. Ecco, Barberi, questo rapporto, le chiedo di illustrarci un po', diciamo, i contenuti generali di questo rapporto, che sappiamo, insomma, entra un po' nel merito di quelli che sono alcuni aspetti noti del settore dei rifiuti, dalle nostre eccellenze nella raccolta differenziata fino all'imbuto rappresentato invece in negativo dalla carenza di impianti, ma c'è anche un tema relativo all'impatto dell'emergenza Covid in questa fase per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Che cosa emerge dal rapporto? Sì, allora il rapporto fotografa bene la situazione e si racconta di un comparto che funziona, che negli ultimi decenni è cresciuto sia come capacità appunto di trasformazione di rifiuti in prodotti che come quantitativi di materia recuperata dai rifiuti che è stata rimessa sul mercato. Nell'ultimo anno appunto che ci ha visti spettatori e purtroppo anche a volte protagonisti in negativo di questa crisi sanitaria, il comparto ha retto bene, nel senso che le aziende mantenendo tutte le attenzioni e tutti i presidi necessari alla tutela della salute dei lavoratori sono riusciti a continuare a ritirare rifiuti. Hanno impedito che un blocco del nostro settore industriale potesse causare o appesantire ulteriormente la crisi già esistente. E se parliamo di aspetti negativi, un aspetto negativo certamente è quello a cui faceva riferimento lei, e cioè la scarsa presenza, soprattutto purtroppo andando dal nord verso il sud, di impianti idonei al recupero dei rifiuti e alla trasformazione degli stessi, ma direi anche di impianti per il trattamento del rifiuto che residua dal trattamento dei rifiuti. Vi spiego meglio. Il rifiuto si recupera quasi tutto, ma c'è uno scarto, certo. C'è uno scarto, e gli impianti che possono recuperare questi scarti seguendo le priorità suggerite dalla normativa europea, quindi le priorità sono: la prima è ridurre la produzione dei rifiuti, la seconda è il riuso, la terza è il riciclo, la quarta il recupero energetico, che esiste e la comunità europea ne parla, e la quinta è la discarica. Quindi c'è anche la mancanza di questi impianti che possano recuperare le frazioni decadenti dai processi di recupero dei rifiuti. E il secondo aspetto negativo purtroppo dipende un po' da una diffusa diffidenza a utilizzare prodotti che derivano dal recupero dei rifiuti, è quello dello scarso utilizzo delle materie prime seconde, cioè dei prodotti circolari, di ciò certo, che deriva dal recupero dei rifiuti. Che invece speriamo che sia sempre di più il presente e il futuro. Barberi, in una parola proprio, in un flash, perché devo salutarla, il Recovery Fund, sapete, siete a conoscenza, se c'è un piano di investimenti in questo settore, perché sappiamo che le aziende private possono fare molto, ma anche lo Stato deve investire in questo ciclo dei rifiuti, che è un problema di tutti. Certamente sì, lo Stato deve investire e noi speriamo che i fondi che vengono dal Recovery Fund vengano utilizzati anche per questo. Però non avete al momento contezza, di questo. Allora, purtroppo la contezza che abbiamo al momento non ci soddisfa, perché ecco, sappiamo che non è ottica di transizione green, non vengono finanziati come vorremmo gli impianti per il riciclaggio dei rifiuti e soprattutto l'uso dei prodotti riciclati. Io mi fermerei qua, Barberi, la ringrazio, perché questo è già un punto. Speriamo che questo cambi invece, perché mi sembra anche persino inutile sottolineare quanto sarebbe strategico investire in questa questione, che per l'Italia vuol dire multe europee, vuol dire danni ambientali, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa aspettiamo a investirci i soldi che arriveranno dall'Europa? Giulia Crivelli, Effetto Mondo, tra un attimo.